Kellogg, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Non voglio iniziare con la solita menata ormai vecchia di decenni, facendo il finto annuncio dell'arrivo degli alieni alla Orson Welles, perché è una cosa datata, lo fanno tutti. Non c'è radio privata, parrocchiale, istituzionale che almeno una volta nella vita non si sia tolta questa soddisfazione. No, oggi vorrei parlare di qualcosa che concretamente galleggia nei canali dell'informazione ufficiale. Sarà perché probabilmente di questo catastrofico e apocalittico 2012 si è parlato tanto negli anni precedenti, adesso che lo stiamo vivendo improvvisamente si è spenta ogni velleità di fine del mondo, nemmeno Giacobbo ne parla più, ormai ha venduto i suoi libri, ormai chi ha dato chi ha avuto, e il 2012 si avvierebbe al suo naturale esito come ogni altro anno che ci è dato da vivere. Probabilmente proprio per questa ragione, per questa mancanza di appeal fantastico in questo anno che sembra molto grigio, molto austero, molto banale, molto rigoroso, da un po' di tempo finalmente qualcuno si è deciso di movimentarci la giornata. Queste sono le persone che con seria e concreta adduzione di prove ci stanno raccontando da qualche giorno in programmi televisivi, in articoli di giornale, in testimonianze prese dalla rete degne della massima attenzione, che gli extraterrestri finalmente stanno arrivando. Devo dire che è tanto tempo che stiamo aspettando questa improvvisa venuta e quindi non ci sembra momento migliore questo, che, visto che siamo così tristi, così grigi, così preoccupati dei nostri affanni, di cominciare a avere qualcuno con cui scambiare due chiacchiere, non siano le solite persone umano dotate con le quali abbiamo a che fare dal primo giorno che ci è stato dato di vedere la luce. Beh, questa mattina vi addurrò alcune di queste testimonianze sotto varie forme. Le presenze singolari, aliene, mostruose sono sempre più frequenti, sempre più registrate dai media che improvvisamente danno grande attenzione a questo fenomeno. Ma visto che ho la fortuna di avere un pubblico molto recettivo, molto attento, e è il mio indicatore del livello di consapevolezza dell'umanità, io chiederei questa mattina a chi mi ascolta di chiamare all'800240024 e portarmi finalmente le testimonianze dirette di questi contatti alieni che sembra che sempre più frequentemente abbia il nostro antico, vecchio e ormai stravaccato genere umano. Quante eravate? Tante, diverse macchine, insomma. Allora, oltre alla mia c'erano altre sei macchine. Altre sei macchine? Sì, in quella zona. Quindi minimo 8-10 persone. Una quindicina di persone sicura. Anche di più. Sì. E tutti hanno visto questo individuo sulla strada che va proprio da Codroico a Palmanova. A Palmanova. Arrivando a questa rotonda io riuscivo a vedere oltre perché non ci sono né alberi né niente e ho visto proprio delle macchine ferme. E all'inizio ho pensato un incidente, un posto di blocco di carabinieri o altro. Però facendo la rotonda ho visto che comunque c'era questa creatura che stava camminando al lato delle macchine. Cioè era sulla strada dalla stessa parte delle macchine o sull'altro ciglio? Diciamo? No, lungo la riga di mezzo riga della strada. Ah, proprio in mezzo? Esatto, ho detto sotto carnevale magari, uno mascherato potrebbe essere. Però la cosa curiosa poteva essere infatti, sì, però la cosa curiosa erano le dimensioni di questo. Erano le dimensioni, beh io sul momento ho pensato che se uno fa uno scherzo in una strada simile diventa un po' un suicidio. Certo. Perché infatti comunque è trafficata al buio. Poi che scherzo di carnevale è andare in mezzo alla strada di notte, ti mettono sotto e esatto, finito lo scherzo. Questo è uno dei testimoni che nella area di Udine sembra abbiano visto questi fantomatici alieni alti 4 metri che passeggiavano così in mezzo all'autostrada. Non si capiva bene a fare cosa, qualcuno sembra che abbia avuto un contatto ravvicinato, abbia detto non sono per nulla aggressivi. Questo ha fatto sì che per giorni si è parlato di fantomatiche astronavi in arrivo di 250 km di diametro. Pensate, un'immensa astronave di 250 km sta arrivando. Ma non cogliete lo scetticismo nelle mie parole. No, spero, perché non sono per nulla scettico. Sono interessato, sono curioso, voglio capire cosa sta succedendo. Se avete anche voi possibilità di aver riflettuto su questo dato, guardando i servizi nella televisione pubblica, leggendo i giornali, vi prego, questa mattina è la volta buona per aprire gli occhi all'umanità sull'imminente arrivo degli extraterrestri. Era circa il doppio di me come altezza. E quindi lei è 1,90? Io sono 1,95, quindi siamo poco da arrivare a 4 metri. Siamo sui 4 metri. Esatto. Diciamo, e che faceva? Camminava e basta? Questo. Stava camminando al lato delle macchine. Io sul momento, quando mi sono fermato, sono sceso, ho preso il telefono per chiamare mio padre per avvertirlo del ritardo, però ho visto che il telefono non aveva rete. Ho preso la torcia che c'era sempre nel giubbino per illuminarlo e proprio sono riuscito a illuminare bene la pelle, le gambe, la testa e tutto il busto. Praticamente lui continuava a camminare a lato delle macchine tranquillamente. Non interagiva, niente, insomma, con assolutamente persone. No. Andava dritto per assolutamente la, no. La sua strada. Era nudo, era vestito, era. Cioè... Allora, tanti me l'hanno chiesto, però io ho detto che se uno indossa una tuta o qualche vestito di carnevale, comunque un minimo di gioco attorno al corpo ce l'ha. Certo. E poi una lampo, insomma, si vede. Appunto, questa qua no. Bottone. Era proprio una pelle. Sono uscite naturalmente delle ricostruzioni iconografiche di questo alieno di 4 metri. È nella sua forma classica dell'omino verde, con le braccia molto lunghe, con il testone tipico d'alieno, con l'espressione aliena. Questa statura di 4 metri riporterebbe ad antiche e leggendarie saghe sui giganti che hanno attraversato il nostro pianeta quando ancora noi uomini eravamo in una giovane età della nostra evoluzione. Mi fa riflettere il fatto che proprio in questo momento si parli così insistentemente di alieni. Mi fa ancora più riflettere riguardo a questa testimonianza il fatto che questo signore è andato a parlare ai Fatti Vostri, intervistato da Magalli, abbia detto che questo alieno di 4 metri passasse indenne attraverso il traffico. È zona di ottima e gagliarda vinificazione quella in cui si è presentato l'alieno, quindi potrebbero esserci delle circostanze accessorie ma non indifferenti nella visualizzazione di questo signore. Ma se l'alieno è passato attraverso una strada trafficata, possibile che non c'è nessuno che in questo momento che ascolta la radio, che quella notte abbia incrociato il gigante di 4 metri che tranquillamente e un po' spesato passava per quella strada? Io di faccia non l'ho visto da dietro. Io mi sono avvicinato a circa 4 metri e mezzo da lui, quindi l'ho notato assolutamente da dietro, e ho notato le gambe, i piedi erano come quelli delle galline sollevati nella parte centrale, le gambe erano a parte sproporzionate, erano inarcate in avanti e percosse nella parte posteriore da tipo dei grossi tendini, busto molto magro, le braccia comunque percorse da queste tendine, anche quelle lunghe circa fino a metà coscia, e la testa io l'ho vista da dietro, era tipo un pallone da rugby messo in orizzontale, cioè ovale, diciamo. Ovale, con alla base una deformazione a forma di cono. Però non ha visto occhi, no. Stava dietro, ha detto, ma appunto. Meglio che rimango qua, poi lo vedo un'altra volta. Ma delle altre persone qualcuno è riuscito a guardarlo, a vedervi? Siete poi scambiati opinioni? Avete sì, io poi ho raggiunto 3 ragazze che erano fermi già lì prima di me e mi hanno detto che loro erano fermi da circa un'ora. Ah, quindi era parecchio che stava là. Sì, era un'ora, io sono stato rimasto lì tra i 5 e i 7 minuti, quindi poco. E nessuno è riuscito a fotografarlo? No. Assolutamente. Perché i telefoni 800 24 0024. Noi tempo fa, un anno fa circa, gettammo un importante e fondamentale referendum tra le nostre ascoltatrici per cogliere i sensi di giustizia rispetto ai tanti luoghi comuni che si facevano sull'accaloramento femminile e chi erano le donne più sensualmente dotate del nostro paese, parlando naturalmente per suddivisione regionale, e ci fu una battaglia strenua tra le bolognesi e le venete, e poi vinsero le friulane. Le donne friulane, uscì anche sui giornali, secondo l'indice di approfondimento di questa importante tematica, risultarono le più calorose, le più disponibili all'intima d'azione. Esse stesse telefonarono alla nostra missione impugnando questo primato. Come mai nella stessa regione, nello stesso luogo geografico, avviene che improvvisamente appaiono gli alieni? Forse dal nostro referendum, dal nostro sondaggio, solleticati, avendo colto l'emissione radiofonica attraverso sofisticati meccanismi, gli alieni di 4 metri, non fate quei gesti brutti al di là del vetro, si stanno spostando con le loro astronavi verso il luogo in cui veramente si trova il punto più interessante di tutta la galassia. 800 24 0024. Andrea, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, dunque io volevo intervenire con una piccolissima testimonianza. No, quello che stiamo cercando stamattina è dare corpo a questa intervista di Magalli, perché dobbiamo aggiungere informazione. Sì, guardi, premetto che io sono scettico e questa cosa di cui le dirò adesso è avvenuta una ventina di anni fa, eravamo io, mia moglie e mia sorella, quindi eravamo in tre a vederla. Ma non è una cosa importantissima, però dunque sopra le nostre teste, mentre stavamo camminando con l'auto... Dove eravate? Io sono di Vasto, quindi eravamo qui vicino a una zona industriale, insomma, ecco. Sopra le nostre teste, diciamo... chiamiamola così, un'aeronave, non so come chiamarla, tonda, completamente tonda, rosso fuoco, è stata più di, non so, 20 secondi, 15 secondi, diciamo, per quello che ricordo, sopra le nostre teste. Ma che altezza era più o meno? Guardi, un centinaio di metri. 100 metri. 100 metri, 100-150 metri. Ed è sparita nel giro di un lampo lasciando una scia bianca. Ma nel giro di, non lo so, io non so cosa sia, se sono alieni. Ma se più o meno è riuscito a valutare il diametro di questa sorta di disco? Ma guardi, penso che sia stato almeno un 8 metri. Ah, quindi un disco di 8 metri? Sì, sì, però era tondo, non era un disco. Ma faceva rumore, sibilava? No, nessun rumore, nessun rumore. Io non so cosa sia, sono scettico, non credo agli extraterrestri. Sicuramente è una cosa di cui non so spiegare. Alla quale non so dare spiegazioni. E cosa vi siete detti voi dopo questa visione? Nessuno, siamo rimasti un po' sbalorditi per circa 10 minuti senza parlare. Quindi non può essere un'allucinazione collettiva, tre persone che hanno visto la stessa cosa? No, ma assolutamente, in quell'anno poi io chiesi informazioni, perché non ne parlavo, perché poi vieni preso in giro. Certo, uno viene sempre preso in giro. Altre persone l'hanno visto, proprio quel giorno lì. Tutto qua, non so dirvi di più. Cominciamo da questa prima testimonianza, che è un incontro ravvicinato di un'astronave, ma... quelli che a noi interessano sono i veri racconti, quelli del terzo tipo, quelli del contatto con l'extraterrestre. Questo signor Icodroipo, assieme a sua moglie, sopraggiungono sulla rotonda in questione e vedono un qualcosa nell'immediata vicinanza della rotonda e pensano a un uomo incidentato. Una sagoma che in lontananza poteva essere un uomo disteso, che è buio, si fermano, vanno verso questo signore, qui c'è la testimonianza, nome e cognome, vanno verso questo signore e chiedono, ha bisogno di aiuto? Le serve aiuto? Cosa le è successo? Si alza, perché se ne stava come inginocchiato, se lo sono visti di fronte. Questa creatura, che la cui descrizione collima esattamente con quella di Leonard, ha visto anche la parte frontale. Io le posso dire che aveva solo occhi piccoli, molto piccoli, bocca quasi poco pronunciata, eccetera, eccetera. Ecco, professore, ma noi abbiamo capito che l'hanno visto tutti queste persone che sono attendibili. 80024, 0024, non siamo mai mossi da scetticismo, o perlomeno siamo orgogliosi di ogni nostro glorioso pregiudizio, però siamo sempre aperti ad ascoltare e a sovrascrivere ogni nostro convincimento. Io non sono poi così convinto che non possa esistere altre forme di vita oltre quella che noi conosciamo, però mi sembra molto singolare il fatto che da decenni si parli di alieni, e decenni sono persone che li hanno visti, e mi sembra impossibile che un segreto così cosmicamente diffuso possa essere tenuto nascosto, possono esserci dei sistemi di repressione della verità così potenti che in realtà questi alieni che passeggiano le parti di Codroipo tranquillamente, oltre il signore Vadamagalli, non ci sia nessuno che l'abbia visti, l'abbia fotografati. Oggi non può accadere nulla per strada che non ci sia qualcuno che lo fotografa col telefonino e lo mette subito o su YouTube o su Facebook. Ieri uscivo da un bar assieme a un amico, dopo 30 secondi vedo scritto su Facebook che mi avevano visto con un amico, descrizione capillare di come eravamo vestiti, cosa facevamo, quale via stavamo percorrendo. Quindi mi sembra singolare che delle decine di persone che abbiano visto questo UFO nessuno abbia pensato di prendere il telefonino, perlomeno fargli una foto. Mauro, buongiorno. Buongiorno, sono Mauro da Verona. Sì. Senta, io più che una testimonianza, posso dire che già sono circa 40 anni che studio il fenomeno extraterrestre. Ah, quindi lei diciamo, ha degli elementi storici per commentare questa notizia? Sì, ma io ci sono arrivato alla certezza più che altro che noi siamo degli esseri che sono stati creati da altri esseri extraterrestri, che le posso garantire che non sono un pazzo. E questo l'ho verificato dopo 6 o 7 anni di attento studio della Bibbia, soprattutto del Vecchio Testamento e di altri testi, perché tutti alla fine concordano con le stesse versioni. E basta leggere. Ma basta mettersi d'accordo, c'è chi li vuole chiamare angeli, chi li vuole chiamare UFO, alla fine sono sempre persone che vengono da un'altra dimensione. Ogni testo sacro parla di realtà metafisiche, quindi se lei li vuole... Ma non sono... liebe, le entità biologiche extraterrestri, perché gli UFO sono oggetti, ma poi ci sono abitati dalle entità biologiche extraterrestri, non sono entità metafisiche, sono entità fisiche, non vengono da un'altra dimensione e non se ne sono mai andati dalla Terra. E quindi stanno ancora nella Terra? Eh sì, e per fortuna, perché riescono a mantenere determinati equilibri, fortunatamente. Sono perché... quelli che la gente chiama spiriti, non so... No, quelle sono altre cose, perché Io mi sono interessato anche di spiritismo e sono altre cose. Sono degli esseri in carne ed ossa, diversi da noi, alcuni sono tipo i biondi nordici, sono più o meno uguali a noi, più alti, eccetera. Ci sono i grigi, ci sono i rettiloidi, ci sono i nani, ce n'è di vari... E questo tipo di avvistamento cos'è? Un grigio? Io di questo l'ho sentito qualcosa Caterpillar una mattina, ma non ho visto Magali perché non ho tempo di vedere quel programma. È classico alieno. No, i grigi sono soggetti alti da circa un metro e venti, hanno una testa grossa, apparentemente non hanno nessun tipo di vestimento, sembra che abbiano una tuta. È questo è esattamente, dicono che sia fatto così. Allora è un grigio, sono quelli, ma i grigi... Ma 4 metri? No, i grigi sono piccoli, un metro e venti. Oh. Di solito. E quindi non c'è nella sua tipologia di alieni questo di 4 metri? Non... Ma quelli di 4 metri sembrerebbero quelli di Zanfretta. Lei conosce il caso Zanfretta che è avvenuto nel 78-77, mi sembra? Forse ha avuto qualche tiepida reminiscenza, non ricordo. Zanfretta era un portiere di notte, come si chiamano, una guardia notturna. Una guardia giurata. Bravo, che è stato contattato, è stato rapito, io ci credo perché l'ho conosciuto di persona, non è uno che dice bugie, anche perché in questo caso... Ma quando rapiscono, non ci sto ironizzando, quando gli alieni rapiscono gli esseri umani, visto che stanno accanto a noi e possono prenderne quanti ne vogliono, poi cosa fanno? È vero, li mettono su tavoli anatomici, li studiano, mettono sonde in luoghi innominabili? Purtroppo sì, soprattutto i grigi e i rettiloidi. Sono dei sadici. Spariscono... Prego? Sono dei sadici, perché fanno questo tipo di... Sì, ci sono quelli cattivi, c'è sempre la dualità, ci sono quelli cattivi, per usare un termine terra-terra, e quelli buoni. Noi siamo studiati per loro, il loro scopo finale, dice il professor Maranga, non so se lei l'abbia conosciuto, che è un professore di chimica dell'Università di Pisa, sì. Che studia anche lui... Perché mi fa una domanda il geometra Rocchetti, che è la persona che mi manda in onda, dice, ma se ci hanno creato loro, perché ci devono studiare? Dovrebbero conoscerci. Ve lo dico io il motivo, perché poiché molti, almeno questa è la teoria del dottor Malanga, anche se io non sono molto d'accordo che si possa fare, e Malanga sostiene questo, intanto ci sono circa 2 milioni di sparizioni all'anno di persone, non si sa dove vadano a finire, solo in Italia mi sembra oltre 14. Sì, chi l'ha visto ne è testimonianza. Ma 14.000 solo in Italia all'anno. 14.000 scomparsi in Italia. Sì, mi sembra un numero un po' grande. Resti comunque lì, aspetti, ho altre testimonianze, vogliamo aggiungere qualcosa di concreto. Lei ha giustamente studiato il problema, ha una importante letteratura a nostra disposizione, vediamo però di confrontarla con casi concreti. Roberto. Sì, buongiorno. Lei cosa ha visto? Una testimonianza e una suggestione. La testimonianza mia è che una decina di anni fa era notte verso l'una, con due amici tornavamo da Udine verso Trieste. Ah, sempre in quella zona? Quella è una zona ricca di apparizioni. Io non lo so perché non mi sono documentato, però sono sicuro che a livello all'altezza di Ronchi Legionari, tra l'altro vicino all'aeroporto, però abbiamo visto, c'è una palla verde e blu, ci ha seguito per una decina di chilometri. Sempre ad altezza, diciamo, di... Ad altezza, basta, state 20-30 metri. Ah, molto vicino. E quindi io ci credo, penso che siano fondate tutte quelle le teorie e le ipotesi che noi abbiamo una provenienza extraterrestre. La seconda cosa è che non so se lei ha mai sentito parlare dei bambini iride, mi sembra. Sì, iride, sì, sì. Primo, indaco, bambini indaco. Sì, mi scusi. E poi l'altra cosa è che forse noi sbagliamo a cercare l'alieno, il marziano con le antennine, le cose, mentre magari... L'alieno è proprio in noi, ecco. Bravo. Esattamente. Cioè, fermiamoci qua perché voglio testimonianze, che non è il momento di aggiungere filosofia alla filosofia, già è stato scritto tanto, vorrei concrete testimonianze. Michele. Pronto? Sì, Michele. Mi dica, sono io. Michele, lei ha telefonato, ha una sua testimonianza. Secondo me gli alieni non esistono per niente. Questo è un punto di vista rispettabile. In quel periodo lì, diciamo così, eravamo sotto le feste di carnevale, e proprio in quelle vicinanze c'è un grande allevamento di struzzi, che sono alti circa 2 metri, 2 metri e 20. E lo struzzo potrebbe, nel suo incedere saltellante, dare l'idea di essere un alieno? Ma secondo me l'hanno visto fermo, non saltellante. Quello che dico è uno struzzo che aveva saltato la recinzione e camminava in mezzo alle macchie, potrebbe essere. Molto, molto ovviamente gliel'hanno messo lì soltanto perché questo esemplare qua, questa figura, così era ferma, e quindi qua ci abbiamo riso un pochettino tutti quanti e abbiamo pensato che fosse stato uno scherzo. Quindi qualcuno ha portato uno struzzo in mezzo all'autostrada per fare uno scherzo e questi hanno visto l'alieno? Proprio non era solamente in autostrada, era proprio nelle vicinanze. Ma lei sa qualcosa, diciamo, ha avuto notizie? Ne hanno parlato le televisioni locali qua. Eccetera. Quindi c'è una versione locale che in realtà la grappa locale aggiunta a uno struzzo produce un alieno. Poi la fantasia della gente galoppa sempre avanti. Ci fermiamo soltanto un istante, allora grazie alla testimonianza, diamo l'informazione a... punto alla borsa e fra un momento ritorniamo perché ci sono importanti, struggenti e indicibili testimonianze sugli avvistamenti degli UFO. Melog, la realtà condivisa. Passiamo adesso all'arrivo degli alieni. Il governo, dopo una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, ha diramato una nota ufficiale per rassicurare la popolazione. Ancora non è stata comunicata la data precisa dell'arrivo in Italia, ma secondo il governo i marziani non rappresenterebbero alcun pericolo per la popolazione locale. Si invitano i cittadini a non fare scorta di cibo e di acqua. La nota prosegue sottolineando che per ora non sono previste interruzioni dei servizi primari quali luce, gas ed acqua. Il Vaticano afferma che molto presto verranno resi pubblici i passi secretati della Bibbia che annunciavano la venuta della civiltà extraterrestre. Questa è un'edizione particolare del TG3, conduce Maria Cuffaro e annuncia l'arrivo degli alieni con grande tranquillità, serenità. In realtà è preso dal film di Gianni Pacinotti, L'ultimo terrestre, che è in concorso alla prossima mostra del cinema a Venezia, però è plausibile. Un giorno potrebbe accadere che la Cuffaro, come qualsiasi altro conduttore di noto telegiornale nazionale, dica questa cosa: sono arrivati finalmente gli extraterrestri. Guardate che già l'arrivo degli extracomunitari sarebbe stato considerato un evento soltanto 50 anni fa. Chi mai avrebbe immaginato di vedere persone di tutti i colori nelle province più remote del nostro paese? Beh, anche gli extraterrestri arriveranno con le loro facce grigie, con i loro arti tentacolari, con i loro strumenti di investigazione corporale, e dovremo fare i conti anche con loro. Ci saranno persone che predicheranno l'apertura, l'integrazione, altri che andranno a giro nei cartelli: morte agli UFO, sporchi extraterrestri, maiali, profittatori, schifosi. C'è chi di notte andrà a dargli fuoco, chi in realtà ci si accoppierà piacevolmente. Insomma, accadrà probabilmente anche questo. 800240024. Ma se a voi dovesse mai accadere che in una notte di plenilunio incontraste uno di questi esseri così strani, con la certezza che egli sia un alieno, cosa fareste? Fuggireste? Rimarreste impietriti? E prendereste la lupara? Comincereste a prenderlo a sassate? Vi offrireste dicendo: prendi me e lascia stare la mia compagna? O viceversa: prendi me e lascia stare il mio compagno, a seconda dell'atteggiamento dell'alieno? O semplicemente tentereste con il linguaggio del corpo di farvi comprendere: io essere amico, tu venire in pace, e cose del genere? Questo aspetto da voi. Gildo, buongiorno. Buongiorno. Gildo, buongiorno, il camionista, signor... che conosce molto bene il tratto di strada in cui c'è stata l'apparizione aliena. Ci sono appena passato. C'è passato adesso. Esattamente cos'è? La A4, come si chiama? No, è una statale, la chiamano la Napoleonica, che parte da Palma Nova e porta a Codroipo. A Codroipo. Passa vicino a Villa Vanin di Passariano. Ed è una strada trafficatissima di giorno, di sera un po' meno, comunque sì. L'unica cosa che dicevo, volevo fare solo notare, che comunque siamo a 2 chilometri dalla base delle frecce tricolori, no? Quindi c'è una della pattuglia acrobatica nazionale. Sì, sì. In linea d'aria dagli strumenti saremo 2 chilometri circa. È strano che sì, se fosse successo qualcosa di Te dice, si sarebbe levata in volo la pattuglia acrobatica? No, non si sarebbe. avrebbero levato in volo, però... Beh, loro fanno solo esibizioni, volta. Però, non è che hanno strumenti di attacco difesa aliena. Hanno. Sì? Sì. Quindi loro potrebbero mitragliare e colpire con missili gli alieni? Sì, tranquillamente. Vabbè, forse sono buoni, prima di ucciderli bisogna aspettare. Sì, sicuramente è meglio di quelli che abbiamo qua adesso. Quindi lei, diciamo, tende a minimizzare questa apparizione? Sì. Lei che però frequenta la strada, trova plausibile che anche se di notte un essere umano o extraterrestre passeggia attraverso le macchine senza che nessuno o lo investa o abbia modo di accorgersi da parte del testimone? Sì, potrebbe essere, sì. Non c'è pericolo? No, io non mi spavento. E la versione degli struzzi, le è mai capitato di vedere uno struzzo attraversare la strada da quelle parti? No, però posso dire una cosa, la prima volta che 20 anni fa si parla, che ho visto i primi struzzi, sono rimasto un po' titubante perché mi trovavo nella ex Jugoslavia, e quindi mi ha fatto l'effetto di vedere un alieno qua. Sì, lo struzzo fa sempre impressione quando lo si vede, è molto singolare. Grazie Gildo della preziosa testimonianza. Emanuele. Buonasera, buongiorno, scusi. Eccoci. Ascolti, niente, io volevo solo puntualizzare una cosa, che è semplicemente nella storia è scritto... Lei è uno studioso anche lei di alieni come... No, io sono maestro d'arte, però posso garantire al 100% che in base agli studi fatti e comunque monumenti che esistono in tutto il mondo, gli alieni sono sempre stati sulla Terra. Tanto è vero che... Questo dice anche Giacobbo, sono mesi, anni che ci va avanti, ci sono le iscrizioni nelle piramidi, l'astronave Maya... Era un famoso studioso dei famosi coni sumeri. I sumeri dicevano praticamente che gli extraterrestri innamorati delle donne terrestri, semplicemente non potendo loro accoppiarsi con altre donne, perché diciamo, non potevano? Loro razza. Ci sono dei problemi di compatibilità di input-output, qual è il problema? Diciamo che Geremia Fici diceva che comunque questi popoli qua, no, avendo diciamo questa razza aliena, avendo problemi di riproduzione, di accoppiamento, cioè hanno finito le donne dalle loro parti, utilizzato le donne terrestri, e da questa unione sono nati i famosi Anunnaki. Cosa sono? In teoria è scritto anche nella Bibbia: in un tempo antico la terra fu abitata dai giganti. Allora tornerebbe, diciamo, la testimonianza attuale degli alieni di 4 metri, è il ritorno degli Anunnaki. Esatto, il ritorno degli Anunnaki. Semplicemente noi in Sardegna qua siamo pieni di testimonianze dei giganti, siamo famosi per i giganti. Lei da dove chiama? Da Sassari. Ah beh sì, ho visto la tomba del famoso gigante sardo, sì. Sì, si chiamano i giganti di Montiprava. Sì, l'ho visitato quel sito archeologico, cioè in effetti questi grandi sarcofagi che o ci mettono due persone uno sull'altro come fosse un letto a castello, se no non si spiega come mai. No, ma non si spiega neanche come siano state fatte, infatti risalgono al 1600 avanti Cristo e la circonferenza dell'occhio è talmente perfetta che non si capisce come sia stata incisa. Beh, questi sono i misteri che l'archeologia... Ma guardi, li posso citare migliaia di nomi, c'è l'astronauta di Palenca del famoso dio Maya. L'astronauta di Palenque è un uomo che vive dentro un'astronave, guida un'astronave, è arrivato sulla Terra, riparte per poi ritornare. C'è stata un'interruzione, ma è tipico comunque delle forze aliene interrompere i contatti. Anche gli alieni di 4 metri hanno improvvisamente tolto campo a tutti i telefonini, per questo la gente non può chiamare la mamma e la fidanzata: oh, sto qui con l'alieno, aspetta, mo ti faccio la foto. Mauro. Sì, mi scusi per prima, ma non avevo capito, ecco. Sì. Ma gli Anunnaki però sono gli abitanti del pianeta Nibiru, che è un'orbita di circa 3600 anni, fa parte del nostro sistema e ci sono alcune anche delle prove scientifiche. Quindi non c'entra nulla secondo lei, come diceva il suo collega sardo, un rapporto? No, potrebbero essere anche degli Anunnaki, però gli Anunnaki sono gli abitanti di Nibiru, che è un pianeta che proprio dai sumeri viene riconosciuto, che ha un'orbita di circa 3600 anni e parrebbe che noi siamo stati creati proprio da loro. Ah, dagli Anunnaki. Sì, ma tornando un po' ritroso, stavamo parlando del perché fanno queste cosiddette abduction, cioè questi rapimenti. Ma sull'accoppiamento fra alieni terrestri, lei ha qualcosa da aggiungere? Sì, sono ibridi, io ne conosco una che abita dalle parti del Monte Amiata. Una signora che ha avuto rapporti con gli alieni? No, è lei un ibrido. Beh, ci dia il telefono, la chiamiamo subito. Cioè, possiamo telefonarle? Ma senta, ascolti, io non glielo do il telefono, no, anche se ce l'ho. No, preavvertendola. È andata anche la televisione questa persona. No, preavvertendola, se lei la preavverti, cioè, guarda, saresti disposta a dare la tua... Io glielo devo chiedere, adesso... devo essere autorizzato. Sì, e ma adesso, fra un secondo, ci salutiamo, la contatterà Fabrizio Intonti, che sta in regia, se vogliamo metterci in contatto. No, perché avere un ibrida significa una persona... partorita anche un libro, oltretutto, da un incontro fra il dottore mi deve far finire un concetto che è importantissimo, sì, prego. E tutti devono ascoltare. I rapimenti dovrebbero avvenire per questo, poiché questi esseri non avrebbero la coscienza, quella che noi chiamiamo spirito. Pare che vogliano estrapolare da questi addotti, da questi rapiti, la coscienza per metterla nei loro corpi. Ha capito il concetto? Sì, ma se uno non ha coscienza, non ha nemmeno bisogno di avere ma una coscienza. Ma io non sono d'accordo. No, io sono convinto che se uno non ha coscienza, e quindi non ha consapevolezza, non è consapevole del fatto che sia necessario avere una consapevolezza, quindi... Ma secondo loro, almeno queste sono le teorie del dottor Malanga, secondo loro noi abbiamo un tipo Chapeau. Di coscienza, di spirito elevato che li migliorerebbe, ecco perché se ne vogliono appropriare. Io non quindi sono vogliono prendere da noi la cosa più preziosa che abbiamo, bravo. Ci vogliono togliere l'anima, come in tutti... Bravo, certo. Io non sono di questo parere. Quindi esiste un risucchiatore di anima, state attenti, sì. Che potrebbe essere, potrebbero applicarvelo, e anche quello penso che o piace o brucia, non credo che sia una cosa facilissima da fare, e vi portano via l'anima. Attenzione. Melog, la realtà condivisa. Il 2012 è appena cominciato e già le segnalazioni di oggetti volanti non identificati sono migliaia. Le testimonianze oculari che accertano la presenza di UFO si moltiplicano di giorno in giorno. In Italia, due donne, Pina e Loredana Mesisca, stavano percorrendo l'autostrada Napoli-Bari in direzione Benevento quando improvvisamente hanno notato sulla carreggiata, a circa 80 metri dalla loro vettura, qualcosa che sembrava si stesse sollevando dall'asfalto. Si trattava per loro di un enorme oggetto volante grigiastro di una trentina di metri di lunghezza, a forma di matita piuttosto robusta e semitrasparente. I pochi secondi dell'avvistamento sono stati accompagnati da fenomeni strani. Dopo mesi lo stereo dell'auto ha ripreso il suo funzionamento, mentre il cellulare si accendeva e spegneva. Le testimoni sono state ascoltate in una riunione. È interessante apposita, quando si parla degli alieni, metto sempre questa musichetta, come negli anni 50 si immaginava che fosse il segnale sonoro della trasmissione aliena. Mi suggerisce Raffaele, con profondo acume e conoscenza della zona, che nella zona di Codroipo, Casarza, c'è una base missilistica contraerea e spesso vengono fatte esercitazioni con pallone e manichette metalliche e via dicendo. Quindi potrebbe essere una di queste sorte di bersagli di base missilistica. Però non si spiega l'alieno di 4 metri. Abbiamo sentito rabbrividenti, agghiaccianti testimonianze di esperti di alieni, soprattutto sulle famose adduzioni, queste... intrusioni aliene, su cui è stato fatto anche un film che è stato subito ritirato alle sale perché nessuno vuole che si sappia che esistano tante persone addotte o indotte o eterodotte o distrutte nella loro intimità per rubargli l'anima, perché questo pare sia lo spirito più profondo che anima l'invasione aliena. Ermanno. Salve, sono io, dottore Nicoletti. Eccoci. Allora, mi dica. No, lei dunque vive a Portici, in un appartamento, e ha visto qualcosa che assomiglia a un avvistamento alieno? Sì, diciamo che all'epoca vivevo a Portici, perché adesso vivo in provincia di Caserta, tra l'Alto Casertano e Roma. E, questo episodio risale all'8 dicembre del 1978, praticamente... mi chiama mia sorella, noi avevamo un bellissimo appartamento che si affacciava sul Golfo di Napoli, per cui vedevamo tutto il Golfo, praticamente da Sorrento fino a Capri, Ischia, Procida, Napoli, Posillipo, eccetera. Quindi avevamo una posizione privilegiata. Quella mattina il cielo era particolarmente limpido perché c'erano folate di vento, quindi avevano spazzato anche un po' di inquinamento e di nubi. mi chiama, ci chiama mia sorella e vediamo un disco volante che vola, o meglio vola, che plana, non so come che termine usare. Era inequivocabilmente un disco volante. Sì, guardi, lo vedemmo io, mio padre, mia madre, le mie due sorelle e a un certo punto prendemmo un potente binocolo americano, perché io sono nato negli Stati Uniti, e con questo binocolo vedemmo ancora meglio questo disco argenteo che ovviamente rifletteva i raggi del sole. Persone a bordo non avete visto col potente binocolo? Non ho capito, no, noi vedemmo, ripeto, col binocolo, no, vedemmo soltanto solo e si vedeva chiaramente che girava su se stesso e lentamente planava su questo golfo, sul golfo. A un certo punto, ripeto, lo vedemmo col binocolo tutti, a un certo punto entra tra le nuvole e sparisce improvvisamente. A velocità sconosciuta dai nostri mezzi di assolutamente. Questo diciamo, la sua testimonianza collima con infinità di altre testimonianze. Diciamo Gaetano pure ha visto un disco volante. Poi nessuno ha visto gli alieni, tutti vedono i dischi, ma io vorrei vedere, sentire testimonianze di persone che hanno visto l'alieno in carne e ossa o in muco e viscidume, non so bene di cosa siano fatti. Gaetano? Pronto? Cosa ha visto lei? Allora, nel 1980, ad agosto, fine agosto, sarà stato il 23-24 agosto, alle 7 di sera, grosso modo, insieme ad altre, un altro migliaio di persone, stavamo su un lido balneare, si chiamava Lido Augusto all'epoca, adesso non esiste più, e me lo sono visto in testa praticamente, su un albero, diciamo a distanza di 20 metri, 30 metri, un disco volante praticamente fermo, planato, che girava su se stesso e con luci intermittenti gialle e bianche. È stato alcuni secondi, diciamo, 15-20 secondi. E no, poi è volato via. Poi è andato via con una velocità che non esisteva e non esiste. E quello, questo, dico, continuiamo. No, continuiamo a ribadire l'esperienza più tipica. Si vede un disco. Le premetto che prima di allora ero abbastanza scettico sull'argomento. Adesso è diventato. No, assolutamente. Confida in questo arrivo. Assolutamente, le posso confidare che c'erano anche delle testine che si affacciavano. Ah, ecco, questo volevo sapere. Sì, si affacciavano, diciamo, vicino a queste vetrate, questi vetri intermittenti, delle faccine, delle testine, diciamo. Facevano dei gesti, salutavano. Sì, assolutamente, non credo che salutassero, ma guardavano incuriositi praticamente questa popolazione marina, questa popolazione che stava al mare praticamente. Erano ma le espressioni com'erano di queste persone? Le espressioni non glielo erano assolutamente. Vedeva delle testine, comunque, come si vede? Erano delle testine a tipo di palloni di rugby. Ah, come concorda con la mia testimonianza? Il test è d'uovo, il classico test è d'uovo. Sì, ed era il 1980. Benissimo. Ci tengo ribadito perché è importante. È molto importante, molto importante. Antonio, buongiorno, Antonio. Buongiorno dottor Nicoletti, buongiorno a voi e a tutto lo staff. Abbassi la radio però, 24. Abbassi la radio. Sì. Eccoci. Buongiorno a voi e a tutto lo staff. Cosa ha visto 24. Lei? Siete il massimo. Sì, io sono un camionista, un camionista di Bari. Eravamo in cinque, tutti della stessa famiglia, che viaggiavamo verso il sud. Che anno era? Più o meno. No, questo è un mese fa. Ah, un mese fa, quindi recentissimo. Un mesetto fa. Mentre erano le 21:30. Ma eravate tutti sul camion o con un'autovettura? No, tutti e cinque su un camion, ognuno aveva il camion suo. Ah, cinque camion. Cosa avete visto? Che devo chiudere? Velocemente. Allora, niente, cosa abbiamo visto? Abbiamo avuto un luccichio sopra, sì, tutto d'un colpo. E per regolarci in merito, ognuno di noi ha chiamato al baracchino l'altro collega. E tutti avete visto lo stesso medesimo luccichio? Lo stesso bagliore. Questa è una testimonianza che conferma comunque che qualcosa c'è. Qualcosa c'è sicuramente, ma sarebbe bello sapere cosa c'è al di là di questi luccichi e di questi dischi volanti. Questa mattina ancora non ce lo sappiamo spiegare. Melog, la realtà condivisa.